19.01, martedì 25 giugno, sta per iniziare sulle 87.9 di Radio Onda Rossa, l'ultima puntata per questa stagione di Likewise, la numero 90. Chissà se donna c'è. Eccoci, da panica più incontrare le musiche insieme, mi sentite adesso immagino. Sì sì, adesso ti sentiamo, anche troppo, adesso regoliamo un po' i volumi, eccoci. Strano non essere lì con te, com'è essere in radio senza, da sola insomma, senza la mia presenza, un po' più larga sei. No, insomma, sì, sono più larga, ma ovviamente mi diverto di meno con... senza guardare la tua faccia. Va bene, in realtà non, i nostri ascoltatori non lo sanno, ma io ti ho già mandato in avanscoperta per capire dove potremmo realizzare questo festival che abbiamo pensato di fare ascoltare alle nostre ascoltatrici. Oggi stiamo cercando una location, quindi ho già mandato Dona in giro a cercare la location, per quello che non c'è. Per questo che sono, diciamo, in collegamento, sì, è vero, anche perché appunto per questa 90ª puntata abbiamo pensato di regalarci e regalarvi insomma quella che sarebbe la nostra line-up divisa in 3 giorni, perché appunto non ci accontentiamo di un giorno soltanto, nei quali vi faremo ascoltare le artiste che ascolterete questa sera, quindi insomma magari sarebbe carino anche sentire i vostri feedback. Esatto, sarebbe carino, lo potete fare allo 0649 1750, e se volete ci potete scrivere a likewise@ondarossa.info. Potete sempre iscrivervi anche se la puntata, le puntate diciamo per la stagione estiva di Likewise finiscono qui, potete sempre iscrivervi al nostro canale Telegram che è likewise_trx, dove appunto avrete aggiornamenti che riguardano la trasmissione, insomma poi tutte le notizie che ci sembrano più interessanti, anche se siamo molto brave e molto discrete. E un'altra cosa, Pinco, dobbiamo salutare Moonchild Sanele, l'artista sudafricana che con la sua Undumpable ci ha accompagnato per questa stagione, perché appunto non la risentiremo. È vero, non la risentiremo. Io nel mentre sto sistemando tutti i volumi. Ti sento benissimo. Dai. Allora, perché volevamo anche parlare di festival? Perché ne abbiamo perché parlato estate. Molto quest'anno. Perché estate sì, ma ne abbiamo parlato molto quest'anno anche per tutta una serie di motivi. Vi ricordate i vari festival che abbiamo citato, per tutte le, diciamo, le vicende di boicottaggio, per l'importanza che i festival, visto il proliferare dello streaming, visto che appunto le artiste insomma, e le musiciste che facciamo ascoltare molto di rado fanno soldi con la musica che ascoltiamo in streaming, anzi praticamente per niente, chiaramente festival e esibizioni live, come vi ricordiamo sempre, sono la vera occasione per, diciamo, per finanziare la musica che vi piace. Quindi ecco perché i festival ci piacciono, più sono, diciamo, piccoli, più sono attenti a non essere a non sfruttare l'ambiente, a non creare delle situazioni ingestibili, più sono attenti al, diciamo, anche a promuovere della musica che normalmente non si sente, non ha spazio diciamo nei luoghi dove si suona, a noi ci piacciono di più ovviamente. È verissimo. Vado, partiamo, che dici Pinco? Partiamo con quello primo slot. L'abbiamo pensata così, non so se vi piacerà, noi l'abbiamo pensato, ci piaceva l'idea, quindi insomma faremo così e poi voi ci direte. Abbiamo pensato che il nostro Likewise 2024, il nostro festival diviso in 3 giornate, avrà appunto diverse artiste che si esibiranno l'una dopo l'altra, quindi ve le facciamo ascoltare in slot, come se fosse appunto un piccolo, diciamo, teaser del festival. La prima giornata l'abbiamo dedicata alle musiciste che quest'anno ci sono piaciute di più e che fanno prevalentemente musica elettronica, ma come sapete a Likewise la musica elettronica è un discorso molto ampio che mette dentro tutto, la musica tradizionale, la musica folk, le ricerche sul linguaggio, la poesia, quindi insomma tante cose, e poi alcune artiste che ci sono piaciute molto e che ci piacciono molto, che appunto mischiano i generi, magari andando più sull'hip hop, sul rap e su altri aspetti appunto dell'elettronica, che si esibiranno in questa piccola slot. Quindi intanto il primo giorno ve lo, da day one di questo festival ve lo annuncio, la prima che ascolterete sarà Anna Lua Caiano, la seconda Daniela Pess, la terza Moore Mother, la quarta Beth Gibbons, la quinta Tierra Wack, la sesta Little Sims, e chiuderà la giornata numero uno la nostra amata Kim Gordon. E allora partiamo. Numa linha reta pra mesa me levam e na vertical me sento. No sofá nos deitamos irtos e trocamos carinhos rijos, enquanto a noite cai retamente e nossos olhos duros se fecham. Com as pontas dos pés verticais, fomos numa reta para a cama. E no caminho tenso, os teus pensamentos viam o dia reto que passou. No sofá nos deitamos irtos e trocamos carinhos rijos, enquanto a noite cai retamente e nossos olhos duros se fecham. Com as pontas dos pés verticais, fomos numa reta para a cama. E no caminho tenso, os teus pensamentos viam o dia reto que passou. Ando a mais circos. Deixa agora com alimento. Vou não fazer. Oh, deixa agora. Yeah. started to think. You can ask Justin Timberlake, we not in sync. Just like a website, he begging to link. I went to his house and his sofa was stank. For real like a mink, for real like a, I keep the iron like zinc. Disappointed by your attitude, incompatible and dramatic too. Talk a good game, but you never was stunning. He hoping I stick around like a drummer. It must be a bummer. I think that we should separate from each other. It's been like 3 months and I cannot go further. Yeah. Praying you don't use my number. Praying that you lose my number. Baby, I refuse, I'm done. When I'm around, you are not satisfied. Huh. You got the job, but you're not qualified. Huh. Find someone better. You're not who I thought, it's over with through. Sick and tired, got the flu. I with the old and with the new. I won't give a clue, I'm just pointing at you. The rumors I heard ended up being true. Let the tea brew, keep with the zoo. Now I see clear that you're missing a screw. It's really no telling the things you may do. Can't believe I even gave you a chance. So many others who wanted my, I settled, that's what I get for being nice. My free time is always gonna come with a price. Toss me in rice, I'm rolling the dice. I'm cutting you off with a really sharp knife. Praying you don't use my number. Praying that you lose my number. When I'm around you, I'm not satisfied. You got the job, but you're not qualified. Find someone better, or maybe I might. Find someone better, or maybe I might. Just wait and see. Try to feed the law. You wanna be with me, of course. Shake a little piece, wanna see some more. See some more, see some more, see some more, see some more. Soul gonna rise when I leave this corpse. Shake a little piece, wanna see some more. Don't be afraid of the bounce. See when your team's levels gotta change the amount. How can I walk in doubt? Never been a beg, never been a loud mouth. Pen can go for days. I'm obsessed with it, can't change my ways. So blessed with it, what can I say? Top form, staying in shape. I wanna try to beat the force. I wanna try to defeat the law. You wanna be with me, of course. Shake a little piece, wanna see some more. See some more, see some more, see some more, see some more. Soul gonna rise when I leave this corpse. Shake a little piece, wanna see some more. I'm gonna run it up, though you know your fun is up. James knew back when I was coming up, didn't wanna know then. Now I bet they loving us no more. I'm in awe, I'm in awe, the bar is raised. If you know me, know I can bar for days. Nothing to prove, cause I've done enough, lights out, still gonna keep the torch. Check your little piece, wanna see some more? I wanna try to beat the force. I wanna try to defeat the law. You wanna be with me, of course. Check your little piece, wanna see some more? See some more, see some more, see some more, see some more. Soul gonna rise when I leave this corpse. Check your little piece, wanna see some more? Please wanna see some more. about the memories. Come do are you the collection? Did you give up your sono le 19.30, quella che state ascoltando è Likewise, la sua puntata numero 90, un po' speciale perché stiamo facendo, cioè vi stiamo portando dentro a un festival che non esiste, che è un festival con questa line up, magari ad avercelo, no Dona? Sarebbe dura da mettere su sicuramente, ma non impossibile, considerato, ne parlavamo nel, diciamo, mentre andavano i pezzi, alcuni dei pezzi che ci hanno fatto veramente innamorare della musica quest'anno, ne parlavamo insieme dicendoci quanto in realtà sia enorme l'offerta di alcuni festival, appunto grandi, che sono diventati sempre più grandi nel corso della loro storia, e ci chiedevamo anche quanti concerti può reggere una persona durante la giornata e goderseli, insomma, perché non sia troppo stimolo, troppa musica, insomma, e anche troppa energia da spendere. Quindi più o meno secondo noi, in una giornata di festival, una giornata appunto di musica con degli intervalli, 7 concerti secondo noi sono più o meno la condizione giusta. Non so, Pinco, se vuoi aggiungere qualcosa riguardo. Ma penso anch'io, un po' perché in qualche modo, se vuoi stare nello spazio, se vuoi stare nella situazione presente e goderti tutto quello che c'è, anche, cioè, penso che 7 concerti siano abbastanza per provare diverse emozioni, per essere coinvolti, per stare lì, per poterseli godere. E io mi ricordo che millenni fa andai all'Heineken Jamming Festival quando c'erano le Hall, devo dire, poi ci tornai quando ci fu la reunion dei Pixies, perché non li avevo mai visti e quindi li volevo vedere, quindi andai. Però effettivamente sono quei luoghi, quando tu decidi, anche solo, dico una stupidaggine, di andare a fare pipì, ti perdi comunque il mezzo concerto di qualcuno, questo sia chiaro. Sono talmente grossi questi posti che poi è difficile che tu abbia un contatto ravvicinato o molto emotivo con la musica. Sicuramente se ci sono e c'è il tuo artista preferito, questo accadrà. Se ci sono i tuoi artisti preferiti, questo succederà. Ma quanto può succedere? 1, 2, 3. Guardavamo insieme tutti i musicisti che ci sono al Primavera Sound. Effettivamente è più una performance, cioè deve essere una performance, non so, poi se, perché mi sembra che poi scatti quel meccanismo un po' di bulimia, un po' tipo io ho visto questo, sono riuscito a vedere tutti questi concerti, non lo so, ho paura e temo che si possa entrare in questa cosa molto bulimica, molto capitalista, se vogliamo, anche, e anche un po' di performance. Non a caso certi festival sono diventati talmente grossi, perché poi le persone hanno più questa voglia di dire io c'ero, che effettivamente di andare ad ascoltare gli artisti e le artiste che ci sono persone che, non dico che comprano una scatola chiusa, perché le line up, insomma, quando escono i biglietti un po' già si conoscono, ma quasi, quindi più per restare lì che per vedere quei o quelle musiciste. Sì, e noi discutevamo anche insieme prima magari di lanciarci nella presentazione del nostro ideale secondo giorno di festival, di quello che è diventato una definizione dei festival più contenuti, cioè di quelli che non mirano a raccogliere decine di migliaia di paganti come quelli che appunto citavi nel tuo intervento, ma in cui sostanzialmente si mira ad un pubblico molto più limitato, creandolo, diciamo, questa limitazione è un po' legata ai posti dove vengono ospitati questi festival, e quindi che per definizione stessa non possono essere estesi in maniera, diciamo, illimitata, e quindi per creare un'esperienza che è sicuramente meno di massa, che diventa un po' più di qualità, non soltanto per il tipo di, diciamo, di come posso dire, offerta, ma appunto per il modo in cui l'ascolto viene effettivamente fruito dalle persone che sono lì. Come dicevi tu prima, una cosa è vedere un o partecipare, ascoltare un concerto a 90 metri di distanza da dove si svolge effettivamente, 100-150, un'altra cosa è guardarlo, insomma, a una distanza ridotta, assieme, accanto alle altre persone che stanno partecipando a quell'evento. Questo tipo di festival, che si chiamano boutique festival, insomma, questa diciamo definizione che spiega in qualche modo la loro dimensione, sono quelli che ci interessano di più sicuramente. Uno di questi, per esempio, ne parlavamo prima, rimane ancora l'Ipsic Rock Festival, che si tiene in provincia di Palermo da ormai tanti anni, credo siamo quasi verso i 30 anni se non ricordo male, poi dopo lo controlliamo insieme, e quello appunto è un festival che si tiene a Castelbono, se non ricordo male, è il paese che lo ospita, in provincia di Palermo, che ovviamente è un paese piccolo, ha quelle dimensioni, ha quella possibilità di ospitare un numero limitato di persone, e questo in qualche modo rende tutto più bello secondo noi. Ma sì, perché poi chiacchieravamo oggi anche in generale su il festival, come è nato, quando è nato, quanto è antica questa volontà, insomma, di fare comunità e assistere in qualche modo a uno spettacolo, che sia musicale, teatrale o comunque a una performance che in qualche modo abbia a che fare con l'espressione creativa, e insomma siamo arrivati anche avanti Cristo per questo, e credo che sia un po' la cosa che andrebbe recuperata soprattutto oggi. Alla fine i festival nei posti piccoli, che hanno anche dei cartelloni molto curati, perché in qualche modo spaziano magari dentro un ambito, dentro un genere, magari anche osando o portando le persone che ne hanno un'interpretazione più audace, ma che comunque quindi raccoglie anche una certa comunità in qualche modo più interessata, più simile, più omogenea, che può in qualche modo anche avere un rapporto con l'artista molto più forte e più diretto, perché penso anche questa cosa qui, cioè, perché sì, immagino che sia fantastico suonare davanti a centinaia di migliaia di persone, ma emotivamente forse i concerti piccoli, almeno per me è sempre stato così, i concerti piccoli con poca gente vicino sotto palco, anche per l'artista stesso hanno un ritorno emotivo molto più forte in qualche modo, perché sono molto più reali, molto più vicini, molto più autentici in qualche modo. Almeno questa poi è la mia esperienza personale di tanti anni di concerti. Sicuramente hanno anche un impatto più umano, anche da altri punti di vista. Gestire un pubblico di centinaia di migliaia di persone in uno spazio, cioè in un ambiente che in qualche modo deve essere reso fruibile da tale numero di persone, che poi dopo che il festival è finito deve essere in qualche modo rimesso a posto, è sicuramente, diciamo, un impatto ambientale enorme. Sappiamo bene quanto, da un punto di vista anche dei consumi, insomma, di quello che che si produce durante questi concerti, cioè questi festival, insomma c'è un bel impatto che, di cui normalmente non si parla, o comunque se ne parla, in realtà ultimamente se ne è parlato in particolare per un tour di un musicista italiano che non ci siamo nemmeno, insomma, che faceva concerti sulle spiagge, ma insomma in realtà è un discorso che vale in maniera più ampia, insomma riguarda moltissime di queste situazioni. Leggevo in giro di una diciamo di questa nuova parola che si chiama Figital, che in qualche modo mette insieme la parte fisica e la parte digitale, no? L'esperienza del Covid in qualche modo ha creato anche ha creato comunque delle occasioni, visto che non si poteva effettivamente suonare, non ci si poteva riunire, digitali in qualche modo, e si è visto che funzionano, che si può fare anche quello. Quindi in alcune diciamo si sta cominciando a delineare, ancora non è abbastanza chiaro, ma insomma si creano delle situazioni in cui si mette insieme la possibilità e di esibirsi e di partecipare da fruitore o di fruitrice al festival, non in maniera fisica, che è ancora un altro sviluppo di cui dobbiamo insomma ancora farci un'idea, almeno per quanto mi riguarda. Non lo so, non credo che mi potrebbe piacere, se devo essere sincera, perché poi alla fine, non so, i concerti sono sempre stati belli proprio perché metti in mezzo, cioè perché vedi in carne ed ossa l'artista che magari hai sempre ascoltato per radio, hai sempre ascoltato per disco, e te lo vedi lì davanti, e appunto se non è una situazione grande lo vedi proprio, quindi cioè vedi anche come si muove, il suo viso, le sue espressioni mentre suona, non lo so, queste sono le cose che a me hanno sempre colpito e mi hanno sempre spinto ad andare ai concerti. È molto diverso, non so, virtuale alla fine possiamo vedere tutto su YouTube, ci sono 2000 live già presenti, 2000 per dire, live già presenti che puoi guardare di chiunque, di qualunque, però non vorrei che anche in questo campo si perdesse quell'aspetto lì del fare l'esperienza nello stesso luogo, nello stesso momento, perché non so, teniamocela, dai, almeno questa per un po' ancora teniamocela. Il discorso del sicuramente di quante risorse si è collegato al corpo, Pinclo, questo è il discorso. Però il discorso è vero che c'è un discorso legato a quante risorse si utilizzano per fare questi mega eventi, ma infatti il problema secondo me sono appunto i mega eventi, un po' per la produzione di plastica che ne consegue in qualsiasi mega raduno che andate, anche perché non ti puoi portare niente, quindi è sempre bottiglie di plastica, bicchieri di plastica, bicchieri di plastica, bicchieri di plastica, un po' quanto anche quanta energia è necessaria per alimentare palchi stratosferici di 30 metri, 40 metri per casse, per non so quanti watt, più tutta una serie di altre questioni. Forse a questo punto infatti bisognerebbe ragionare di più su moltiplicare nei posti, nei luoghi, i festival piccoli, i festival boutique, come quello che un po' non è come quello che abbiamo pensato noi, perché sognando noi abbiamo sognato in grande, quindi abbiamo messo nomi che sono stra da cartellone, se vogliamo dire, e quindi non probabilmente sarebbero fuori da un discorso di boutique. Però è anche vero che la presenza delle donne nei concerti, e magari questo ne parliamo poi quando raccontiamo la terza giornata, soprattutto la presenza delle artiste nei vari festival o nei vari cartelloni estivi di locali, festi, di cave, auditorium e quant'altro, è molto molto limitata, e questa è sempre una delle questioni e anche uno dei motivi che ci ha spinto a fare questo gioco. Dico, ma vediamo se pensassimo noi a fare un festival, cosa verrebbe fuori, e siamo riusciti a fare su 3 giorni 7 artiste per ogni giorno, quindi direi che volendo le potenzialità ci sono, ci sono, e tra l'altro ora, da un nostro punto di vista queste artiste sono straordinarie, e sarebbero appunto sarebbe un miraggio mettere dentro un festival tutte insieme. Nella realtà, insomma, ti assicuro che non ci sono tante persone, a parte le ascoltatrici di Like Wise ovviamente, che conoscono tutte le artiste che abbiamo selezionato, e ti dirò che poi lo scopriremo nella giornata numero 3, le artiste meno note, o comunque quelle che probabilmente sono meno note, siccome noi siamo lungimiranti, le abbiamo lasciate per il terzo giorno, così nessuno può saltarle. Che esatto. Ne dici se partiamo con la seconda, sì, col secondo gioco? Vogliamo dire velocemente chi c'è? Certo. Vai. Vado io? Vai tu. Adrian Lenker, Waxahachi, Al Rain, Vera Sola, Caroline Rose, Ray for the Riff Raff, Chelsea Wolf. Imagine. watch for the falling tide. Make an exit on this sleigh, armed with a memory. Surely will stay with me. Fragments of misery, feeding off my body. I keep my eyes shut. Sage advice to rebut. A blind squirrel finds a nut. Mapping out the shortcuts. 20 questions. Dexter's protesting. And what a blessing. Say you've been manifesting. about here is flickery. For you I've never known. And the lamp is lonely quivery. That's me tapping out, hello, oh. For though we've never spoken, I feel safe with you, oh, Pillow Street. Where the yoke to you is easy, eh? The birdie closes at my feet. not your fault. It's just the way you are right now. Tell me what is wrong, 'cause I'm no longer having fun. Oh, fuck it all, I'm done. Life goes on. I just gotta take a beat, get some fresh air in my lungs. I just gotta do my thing and shake it up. Bombshell in my mind. dress, but I wanna see you undress. Wrap you up in the bomb shelter of my feather bed. Eileen, I must be living twice. Colossus, a Rhodes bus blur in the night. Cowboy hat and a cigarette. Grease marker in my leather vest. Let's go paint the oil cans. Write our names on a grain of sand. No one will remember us like I will remember us. Meet me down in the Castro. We'll pretend it's 1985, before we were a twinkle in our great grandfather's eyes. Children forever. In the end of the night, baby, of the night. Of the night, baby, of the night. In the night, baby, of the night. In the night, baby, of the night. Thank you. torniamo in voce quando sono le 20:10. Quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa sugli 87.9. Quella che state ascoltando nello specifico è Likewise, la sua puntata numero 90, nonché l'ultima della stagione. E stiamo facendo, insomma, questo viaggio sonoro. Dovevamo mettere gli applausi, Dona, alla fine dei sarebbe stato divertente un po' più, anche magari era più facile capire che stiamo portando, insomma, presentando a voi e a tutti noi, insomma, all'ascolto un festival immaginario, un festival un po' utopico, un festival che ci piacerebbe esistesse veramente. È pieno di artiste, come è pieno di artiste Likewise durante tutto l'anno. Pensate che l'unica regola che ci siamo date per comporre questo cartellone è: vabbè, mettiamo almeno solo le artiste che hanno pubblicato qualcosa quest'anno, che è un po' quello che si fa normalmente poi nei festival quando ci sono gli inviti. Di solito girano le persone, gli artisti che hanno portato, che hanno dei nuovi lavori, dei nuovi dischi un po' da raccontare, perché non mi va di dire da promuovere, però da raccontare, da suonare, sì. La seconda giornata era una giornata anche molto particolare, insomma, perché come succede sempre Likewise, anche se non ci sono dei limiti o delle strutture troppo rigide nelle nostre scalette, però comunque poi c'è un sentimento, una base che in qualche modo ci guida nella scelta. Questa seconda giornata l'avevamo immaginata anche un po' più attenta diciamo alla parte delle liriche da un altro punto di vista, che si avvicinasse di più anche alla parte folk della musica roots che ci piace molto. Quindi c'era la Lenker, c'era Waxahachie, c'era Way for the Riffraff, ma anche una parte più sperimentale nel mettere insieme queste cose con l'esibizione di El Rain, e anche una parte più cupa e dark che invece quest'anno ci ha accompagnato con Vera Sola e Chelsea Wolfe. Quindi in realtà poi vedi che piano piano, anche se non abbiamo creato delle strutture rigide, poi delle atmosfere si sono create. Non abbiamo ancora messo una band di shoegaze incredibile in due giornate di festival. Ma come sai, abbiamo aspettato l'ultimo giorno. Io volevo citare, se sei d'accordo, visto che ne parlavamo un po' insieme, alcuni festival che secondo noi potrebbero essere, sono interessanti, che possiate andarli a vedere o no. A me per esempio me ne venivano in mente tre o quattro. Intanto un festival che insomma ha una storia abbastanza lunga, che si chiama Afro Punk Festival, che mi piaceva citarlo. È un festival nato nel 2005 a Brooklyn, quindi insomma molto lontano da noi. È un festival che va avanti dal 2005, quindi sono ormai tanti anni, quasi 20 anni, che ha attraversato anche una sua storia diverse città, quindi insomma si è spostato, e anche diversi paesi nel mondo, e che è un, diciamo, un festival di arti in generale. Non c'è soltanto musica, ma ci sono film, ci sono produzioni artistiche in senso più proprio, e legato appunto a artisti nere alternative. Quindi insomma, quindi è un festival che si propone, un po' come dicevamo prima, si occupa soprattutto di questo. E secondo me le line up, cioè soltanto andatevi a guardare quello che succede in questo festival anno per anno, afropunk.com è il sito di riferimento, ci saranno anche tante ispirazioni che troverete per ascolti, visioni, letture che magari non avete mai fatto. Un altro festival che non c'entra direttamente con la musica, ma che vorrei ricordare, che è un festival che esiste da tanto, tanto, tanto tempo. La prima edizione credo che sia accaduta nel 71, anche se con un altro nome, è il Festival di Sant'Arcangelo dei Teatri, che è un festival storico italiano ed è un festival in cui il teatro, la danza, le performance artistiche sono appunto il centro. Il corpo è il centro di questo festival, ma non solo. E secondo me è uno di quei festival appunto che un po' racchiudono, ripeto, anche se non fanno musica direttamente, proprio lo spirito che noi raccontavamo prima, come dovrebbero essere i festival, come dovrebbero entrare nei luoghi che li ospitano, come dovrebbero interagire con le persone che arrivano, eccetera, eccetera. Un altro festival invece che mi sento di consigliarvi, e proprio ci potete anche venire, io ci andrò per esempio, È un festival che si terrà il 5 e il 6 luglio prossimi in un paese in provincia di Udine che si chiama San Giorgio di Nogaro, in un posto fantastico, il parco sotto al Cavalcavia, che è perfetto, un posto meraviglioso che ho visitato l'altro giorno, dove fa le festival, e il festival si chiama Titi, come appunto le tende, che appunto ci ricordiamo. Il programma del Titi 2024 di quest'anno è molto interessante. Intanto è un festival completamente gratuito, offre il campeggio gratuito, le entrate sono gratuite e, come dice nel manifesto di quest'anno, non si vende la terra sulla quale cammina un popolo. Questo è lo spirito di questo festival, appunto Super DIY. Quest'anno il 5 luglio ci sarà in concerto Lily Refrain da Roma, peraltro, e Carit da Trieste, poi DJ set di musica elettronica e di Roots Dub Selection il 5 e il 6. Ci sarà anche un intervento che è una cosa molto importante, ricordiamocelo, che i festival in giro per il mondo in questo momento si occupino, ricordino, discutano di quello che sta succedendo in Palestina. Il 6 luglio alle 16:30 ci sarà anche un intervento con una chiacchierata con Salim El Mawed, medico di sanità di per Gaza, che racconterà appunto quello che sta succedendo, quello che succede in Palestina. Quindi insomma un bel festival fatto con poche risorse, molto DIY, anzi completamente DIY, che però offre tantissime cose, quindi anche in un posto così piccolo. Quindi io mi sento di consigliarvi questi, almeno queste letture e queste partecipazioni. Sì, consigliamo a tutte e tutti quelli che ci ascoltano infatti di cercare i festival piccoli, di sostenerli in qualche modo, perché poi è anche vero che la possibilità di esistere, di resistere, di molti di questi festival è data anche da un buon riscontro, partecipazione, un buon passaparola che gli permette in qualche modo poi di pensare anche al festival dell'anno successivo. Cercateli, perché comunque ce ne sono tanti, magari sono molto piccoli e quindi non arrivano ai vari elenconi dei media mainstream, però ci sono molti modi per poterli scoprire cercando nelle riviste magari di musica un po' più particolari, nei siti un po' più particolari, sicuramente si trovano. O chiedendo a Likewise, se volete, esatto. likewise@rossa.info, vi possiamo dare tutte le dritte che riceviamo anche noi. Un'altra cosa importante, ve lo diciamo sempre, così come vi chiediamo di finanziare economicamente la radio, che ha dei costi enormi appunto con il finanziamento, con il radio abbonamento e il giror di quest'anno, vi ricordiamo anche che si possono finanziare con quelle piccole risorse o semplicemente mettendo a disposizione la vostra presenza, il vostro aiuto, questi piccoli festival. Quindi non li pensiamo soltanto come qualcosa di cui fruiamo, ma pensiamoli anche come qualcosa alla quale possiamo partecipare anche in maniera più attiva. È vero, che era un po' quello che stavo dicendo io prima. Partecipiamo, andiamo, scambiamoci delle informazioni. Se ci scrivete alla @chiocciolandrossa.info, noi saremmo contenti di darvelo. Sono le 20:19. Come avete potuto immaginare, questa sera non c'è Note Cose Città, per quello che un po' ci allarghiamo anche con il nostro festival. Ci sarà Semilia questa sera che parlerà, ci farà ascoltare la cumbia. Poi ci sarà Morfire sempre alle 23:30, quindi restate con noi. Ma restate con noi per l'ultima tranche del nostro terzo giorno di live. Come si suol dire, chiudiamo col botto. Una delle passioni comunque di Likewise è il punk, il post-punk, l'art rock e tutta quella musica un po' sbilenca, un po' caciarona, che ci piace tanto, e non potevamo non chiudere questa tre giorni con questa musica qui, giusto? Quindi giorno numero 3, ultimo giorno, dopo appunto essere impazzite con tutte le altre artiste, vi faremo ascoltare l'ultima line-up: Mourn, Lime Garden, Prince, Whisk, Gustav, Snooper, Lambrini Girls and Menstrual Cramps. Let's break! chest? Or do you adore me? Am I everything you wish you had? The taste of my skin on your tongue turned bad. I can feel that I'm sinking, yeah, the water is freezing and I wanna go. I can see what I'm feeling, I can feel that I'm sinking, yeah, the water is freezing and I wanna go. Never call me but beautiful. We'll be right back. left me wondering which you is here tonight. Cause I wanna know. Are you close? If I have to go, you tell me, you tell me. Are you close? Pride. I wanna push up against you, feel you, claim you in my life. I run forwards and backwards, I try to walk upright. Well, something's off, I lose when I try. But I wanna know, are you? Close my eyes, will you? Are you close? money, but you got trouble committing to me. How are you gonna commit to a baby? Had an abortion, the wife had to. If you don't like it, then fuck you. You're always telling me what I can do with my fucking body, yet you're not the one that's carried child for 9 months. Just a typical pro-lifer telling me what I'm supposed to do with my own fucking body. It's my fucking body. I've had it up to here with all your fucking shit. My body, my choice. Un finale super da concerto, in realtà. Sì, è vero. Ciao Albero, quei concerti che finiscono il Larsen con le chitarre appoggiate agli amplificatori, con tutta l'energia che gira, non ci poteva essere band migliore per chiudere questa nostra tre giorni virtuale di festival che vi abbiamo proposto questa sera come ultima, insomma, puntata della stagione di Likewise per questa, per quest'anno, diciamo, che va da settembre ad agosto. E che altro vogliamo dire? E basta, insomma, ascoltate musica, supportate le band locali, supportate gli spazi e comunque i progetti locali dove DIY è meno commerciali possibili, dove chi produce arte in generale, non soltanto musica, si può esprimere liberamente. E noi ci sentiamo a settembre. Noi ci sentiamo a settembre, l'estate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa non chiude, ascoltatela, sostenetela, c'è sempre radio abbonamento attivo sul sito, tutti i nostri podcast, il nostro festival e tutto quello che abbiamo trasmesso in quest'anno lo trovate su www.ondarossa.info. abbiamo un canale Telegram, likewise-trx, dove ci sono tutti i nostri podcast e gli aggiornamenti, dove vi diremo quando effettivamente torneremo, immaginiamo non prima di metà settembre. Vi auguriamo buone cose a tutti e buon ascolto di Radio Onda Rossa, ci sentiamo fra qualche mese, ciao ciao. Basically undivided. I don't wanna play, I don't wanna play, man. Go by.